Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, a conclusione di questa giornata della donna, tanti auguri a tutte le nostre ascoltatrici, vi presento una donna coraggiosa, una giornalista francese che si chiama Anna Herel, la quale ha scritto un libro che è nato da un'inchiesta da lei stessa condotta sulle motivazioni che spingono tanti giovani francesi a unirsi alla jihad islamica. Il libro si chiama Nella testa di una jihadista, è pubblicato da 360, 258 pagine, 14 euro ed è tradotto da Guia Pepe, Elena Sacchini e Maddalena Togliani. Il libro ha avuto un enorme successo nel suo paese di pubblicazione, cioè la Francia, anche alla luce naturalmente dei tragici avvenimenti che sono successi a Parigi in gennaio, di cui sono stati protagonisti per l'appunto alcuni cittadini francesi passati all'estremismo e al fanatismo islamico. E uno di questi, Anna Herel, incontra casualmente nel corso di una delle inchieste che conduce come freelancer, entra in contatto attraverso i social network con uno di questi jihadisti di origine francese che si fa chiamare Abu Bilal. È un francese che appunto ha aderito allo Stato Islamico e che sarebbe addirittura uno degli uomini più vicini al califfo Abu Bakr al-Baghdadi e che si è macchiato di efferatezze straordinarie. E questo Belel entra appunto in contatto con Anna, a un certo punto desidera vederla perché dai primi contatti si appassiona, si innamora di questa ragazza che si contrabbanda come islamica, come convertita, assume un altro nome, si chiama Melanie, e appunto Bilal se ne innamora, chiede, pretende di passare dalla comunicazione attraverso i social forum alla comunicazione via Skype, e quindi la povera Herel si deve mascherare, si deve vestire secondo i canoni dell'ortodossia islamica, deve far sparire dal campo visivo di Skype qualunque oggetto che possa essere considerato peccaminoso, perché vuole appunto continuare questo rapporto, che documenta anche con delle fotografie che nel frattempo fa un suo amico fotografo, che ovviamente non si deve fare vedere, su Skype, e vuole appunto approfondire la conoscenza di questo personaggio, farlo parlare, farsi dire dov'è, che cosa fa e anche quali sono i delitti di cui si macchia. E naturalmente lei fa il tifo, finge di fare il tifo per questo Bilal, che a un certo punto è talmente innamorato che la sposa, decide proprio di sposarla, e le spiega che non serve affatto la sua presenza, basta appunto la dichiarazione di Bilal di averla sposata, e quindi questa ragazza sarebbe legata per sempre al suo marito estremista. Quindi una relazione che da virtuale diventa un matrimonio vero e proprio. Naturalmente il gioco potrà durare fino a un certo punto, quando Bilal chiede a Melanie di raggiungerlo, quando questa inizierà un lungo viaggio di avvicinamento, ovviamente non raggiungerà la sua meta, questo fa insospettire Bilal, e da questo nasce poi l'esito drammatico per Anna Herel, e cioè il fatto che è stata proclamata una fatwa contro di lei, è stata condannata a morte per aver compiuto questa azione nei confronti di Bilal. Non si sa, pare che sia ancora vivo Bilal, ma certamente Anna Herel ha dovuto cambiare la sua vita, vive sotto scorta da allora. Cambia continuamente indirizzo, oggi ci parla da una località che non ci è stata comunicata, e ci pare interessante adesso presentarvela. Buonasera ad Anna Herel. Bonsoir, monsieur. Anna Herel, che cosa hai scoperto in questo viaggio per diventare una jihadista agli occhi di Abu Bilal? Ho scoperto molte cose, ma ho capito soprattutto che gli islamisti erano molto forti nelle tecniche di persuasione che utilizzavano. Lei parla nel suo libro di una disperata ricerca di un riconoscimento da parte dei giovani che diventano appunto islamisti estremisti. E che tipo di riconoscimento essi cercano? Dipende, spesso è la ricerca di un riconoscimento, una sorta di rivincita nei confronti della vita nei luoghi in cui sono cresciuti, quando, a torto o a ragione, hanno la sensazione di essere stati maltrattati dalla vita nei loro paesi in Occidente e pensano che invece laggiù, nel vicino Oriente, avranno delle nuove possibilità. Nelle donne c'è anche un forte contesto amoroso e hanno l'impressione che con un jihadista possono fare un bel matrimonio e trovare qualcuno che le possa aiutare a fuggire. Le motivazioni delle scelte di questi giovani, secondo lei, non dipendono dalla condizione sociale. E che cosa li spinge allora a questo tipo di scelta? Sì, certo, ci sono molte motivazioni che concorrono. Di sicuro non dipende solo dall'ambiente sociale o religioso in cui uno cresce, ma certo ci sono persone che hanno la sensazione di essere sotto scacco, di essere trattate male nel loro paese. Possono anche essere persone di ottima famiglia, che magari hanno dei genitori ricchi, ma si sentono comunque trattati male. Si sentono con le spalle al muro e quindi partono per la Siria. Nel suo libro lei parla anche di una strategia per lobotomizzare le prede. Mi sembra che sia una strategia che funzioni. Vediamo che da 3 anni a questa parte i numeri che riguardano i giovani sono molto importanti. Sicuramente si tratta di numeri impressionanti. È pazzesco. Sì, quindi si può dire che funziona molto bene. Hanno capito che oggi c'è un forte problema generazionale, che se sei giovane, il malessere che vivi è molto forte. Ecco, loro giocano molto con questo malessere generazionale e tutto quanto dunque va a favore del vicino Oriente. Au Levant, c'est-à-dire en Syrie ou en Irak. Nel suo libro lei ricorda come l'unico rapporto che rimane abbastanza forte con le famiglie e le società di origine è quello con le madri. Che cosa rappresenta questo rapporto? Non lo so, credo che ci sia comunque un senso di colpa in questi giovani. C'è già un forte elemento di delusione. Ci sono molti che vorrebbero rientrare ma che non osano farlo. E dunque il legame materno è quello più forte. Ma ci sono anche quelli che sono felici di trovarsi lì e che tuttavia vogliono comunque mantenere un canale di comunicazione con le famiglie e lo fanno attraverso le madri. In un luogo dove ci sono morti ovunque, quello con la famiglia rappresenta il legame più razionale. Qual è il ruolo del petrolio nella strategia dello Stato islamico? Con la coalizione, con l'Iraq, hanno meno margine di manovra, perché lì hanno nazionalizzato le imprese. Fino all'estate scorsa facevano affari per circa $1 milioni al giorno tra l'Iraq e la Siria, ma poi loro si sono impossessati di gran parte della produzione e la controllano. In generale è petrolio che passa dalla Turchia. C'è una difficoltà da parte dei servizi di sicurezza nel gestire queste situazioni. Lei parla nel libro delle difficoltà da parte dei servizi di sicurezza di gestire questa situazione. Cita un personaggio che dice: si dice che noi siamo o degli incompetenti o degli islamofobi. C'è un'alternativa fra il risultare incompetenti e l'apparire islamofobi? È un grande problema. È un problema mondiale europeo, contemporaneo. Bisogna innanzitutto parlare, senza per questo essere trattati come islamofobi o filo-islamici. Bisogna comprendere il meccanismo, ma francamente non c'è una soluzione al problema. Bilel a un certo punto scrive, Bilel a un certo punto dice alla sua interlocutrice che lì dove lui si trova, in quel mondo, nello Stato islamico, preferiscono le convertite alle donne nate sotto l'Islam. Per quale ragione? Le convertite sono occidentali e che Bilel... Innanzitutto i convertiti sono occidentali e Bilel stesso è un occidentale, è francese e dunque da una parte in questa logica ipocrita gli manca quel mondo che disprezza. Quindi critica il capitalismo, critica l'Occidente, ma in realtà gli manca moltissimo. E Bilel, come gli altri mujahideen, sogna di avere una donna occidentale convertita, perché è stata educata in un certo modo e ha un'educazione simile alla sua. Insomma, in lei vede tutto quello che detesta e tutto quello che cerca, perché questo è quello di cui è stato privato nel corso della sua vita, laggiù in Siria. politique qu'ils essaient de leur apporter finalement là-bas. Alla fine del libro lei parla di una prigione mentale nella quale si sente rinchiusa. Ecco, questa prigione nella quale si sente rinchiusa l'ha fatta pentire dell'inchiesta che ha condotto? No, non sono pentita della mia inchiesta. Ho solo raccontato la realtà delle cose, dei sentimenti che provavo. Non mi dispiace nulla di quello che ho fatto e di tutto quello che ho imparato. E ho imparato molto. Certo, con questo genere di situazioni ci sono dei forti rischi e io li ho affrontati, come d'altra parte fanno molti altri giornalisti in questo momento. E la società francese, secondo lei, è consapevole della gravità di questa situazione che lei descrive così efficacemente nel suo libro? Sì, certo, in Francia c'è la consapevolezza. Forse non generale, ma sicuramente è molto diffusa. Ne facciamo i conti da almeno 3 anni e di sicuro negli ultimi 2 con molta intensità. E quello che è successo con Charlie Hebdo l'ha chiarito a tutti. Le conscienze sono ancora più grandi. E quindi c'è un rischio di sottomissione, per usare il titolo dell'ultimo libro di Houellebecq? No, di fatto io non vedo un rischio di quella sottomissione di cui si parla nel libro. E d'altra parte sono convinta che la maggior parte dei paesi islamisti non abbia nulla a che fare con questa peculiarità dell'ISIS. Grazie ad Anna Herel. E dopo una donna coraggiosa parliamo di una donna potente, anzi potentissima, forse la più potente del pianeta, Angela Merkel, la cui Germania ci viene descritto nel libro di 2 studiosi, uno è un politologo, l'altro uno storico, Gabriele D'Ottavio e Thomas Salfeld, che hanno curato appunto questa raccolta di saggi che si intitola La Germania della Cancelliera, l'elezione del 2013 all'ombra della crisi europea, pubblicato dal Mulino, 298 pagine, 24 euro, e tradotto per le parti scritte in tedesco da Silvia Benazzi. Questo libro infatti raccoglie vari saggi su questo passaggio molto delicato, quello delle elezioni politiche che si svolsero nel 2013, al termine delle quali venne confermata la signora Merkel, che però cambiò, ricorderete, coalizione e abbandonò i liberali, che non hanno avuto un buon risultato elettorale, per passare all'alleanza con i socialdemocratici, alla grande alleanza. Sono state prove importanti non soltanto per la Germania, ma delle elezioni anche centrali nella crisi europea. Una crisi che, scrivono gli autori, probabilmente la cancelliera ha saputo dominare, almeno negli aspetti comunicativi. Scrivono infatti i 2 studiosi che se Angela Merkel è stata premiata dagli elettori nel settembre 2013, ciò si spiega anche con una situazione economica ancora favorevole, tale da far ritenere all'opinione pubblica tedesca che la cancelliera avesse una visione realistica e sufficientemente adeguata rispetto agli interessi nazionali di come si risolvono i problemi connessi alla crescente integrazione dei mercati finanziari. Qui nel libro troviamo fotografata la Germania che esce da quell'elezione del 2013, comportamenti degli elettori, comportamenti dei cittadini e anche dei partiti. Si parla quindi dei nuovi soggetti politici che da allora si sono sviluppati, del declino appunto dei liberali e delle condizioni che hanno portato alla grande coalizione che naturalmente è dominata dalla figura della cancelliera Merkel. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Questo 2015 sarà anche un anno napoleonico, perché tra le tante ricorrenze importanti cade il bicentenario della battaglia di Waterloo e dell'esilio poi a Sant'Elena, dove Napoleone sarebbe morto. E a Sant'Elena una delle letture che più sconvolse l'ex imperatore fu un famoso manoscritto anonimo che raccontava la vita di Napoleone, un memoriale attribuito per lungo tempo a Madame de Staël, in realtà probabile opera di Frédéric Lalain de Chateauvieux, un viaggiatore e agronomo svizzero che era peraltro molto amico della Staël. Il libro, dicevo, creò molta sorpresa e turbò Napoleone per come la sua vita veniva presentata ai lettori. E lo stesso Napoleone lo commentò con molte osservazioni che furono trascritte dai dignitari che gli facevano compagnia, e troviamo questo testo nel libro che vi propongo adesso, Vita di Napoleone, il manoscritto di Sant'Elena 1817, che è pubblicato da Castelvecchi, 136 pagine, 14,50 euro, tradotto da Allegra Ricci, e che contiene le osservazioni di Napoleone in nota che esprimono la sua personalità in modo talvolta molto puntuto. Per esempio, a un certo punto Napoleone scrive: l'autore di quest'opera, cioè del manoscritto, non è mai stato presente ad alcuna battaglia. Napoleone ha combattuto 50 battaglie campali e le ha vinte tutte, eccetto due. Una moderna vita di Napoleone è quella di Alberto Cavanna, che è autore di Storie di mare, che ora affronta Napoleone nel periodo più amaro della sua vita, quella che appunto si apre nel 1815, nella battaglia, nella sconfitta di Waterloo del 18 giugno. Il libro di Cavanna si intitola L'ultimo viaggio dell'imperatore, Napoleone tra Waterloo e Sant'Elena, è pubblicato da Mondadori, 340 pagine, 22 euro. Qui troviamo giorno per giorno i preparativi e le trattative anche interne all'opinione pubblica britannica che condussero Napoleone al suo esilio. Fu una trattativa complessa perché anche in Inghilterra non mancarono le voci di chi riteneva che, secondo i principi della civiltà giuridica inglese e secondo la regola dell'habeas corpus, non si poteva tenere prigioniero e addirittura mandare in esilio Napoleone senza un giusto processo. Tra l'altro Napoleone non era prigioniero, ma lui stesso si era consegnato agli inglesi in qualche misura contando sulla loro protezione. E queste trattative però con questi movimenti all'interno dell'opinione pubblica fallirono e come sappiamo tutti Napoleone venne appunto trasferito a Sant'Elena. E nel libro appunto si parla di tutta la fase che attraversò questa vicenda a partire dalla battaglia di Waterloo, tutte le polemiche e poi il viaggio della nave, la Northumberland, che durò dal 7 agosto al 15 ottobre. Napoleone reagì naturalmente molto male quando gli inglesi decisero di trascinarlo a Sant'Elena, proprio perché egli ricordò di aver chiesto protezione praticamente agli inglesi e protestò ufficialmente con queste righe che adesso vi propongo. Io solennemente protesto di fronte al cielo e agli uomini contro la violenza che mi viene fatta e contro la violazione dei miei più sacri diritti, disponendo in modo forzato della mia libertà e della mia persona. Io sono salito di mia volontà sul Bellerophon. Io non sono un prigioniero di guerra. Io sono un ospite dell'Inghilterra. Mi appello alla storia, che dirà che un nemico, che per 20 anni aveva fatto guerra al popolo inglese, cercò asilo sotto le sue leggi. E quando lui si consegnò in buona fede, lo sacrificarono. Napoleone, a bordo del Bellerophon, 4 agosto 1815. E qui la cronaca di questi giorni malinconici, in cui non manca di esplodere a tratti la personalità naturalmente carismatica di Napoleone, anche se lui stesso comincia a manifestare momenti di sconforto. Per esempio, i suoi collaboratori cominceranno a qualche giorno a vederlo col viso non rasato, una roba assolutamente mai vista per Napoleone. E qui troviamo anche una descrizione di questa piccola ma fedele corte che avrebbe assistito al suo fatale declino umano. Sentiamo per esempio le parole di un suo collaboratore, del generale Bertrand, che confessò il suo sentimento di amarezza nel vedere trasformarsi il suo imperatore. Mi vennero le lacrime agli occhi nel vedere quest'uomo un tempo così spaventoso, che esercitava orgogliosamente un potere assoluto, ora ridotto a implorare un cucchiaio di caffè, a chiedere un permesso, obbediente come un bambino, e chiederlo ancora e ancora senza ottenerlo, e poi chiederlo nuovamente, sempre senza ottenere nulla e senza dare segni di impazienza. In un altro momento avrebbe spedito il dottore al diavolo e fatto quello che gli pareva. Ecco come si era ridotto il grande Napoleone. Un uomo umile e infelice. Infine vi presento un romanzo dominato dalla personalità di Napoleone, che qui vediamo quasi invece all'inizio della sua trionfale carriera. Il romanzo si intitola La mappa, l'autore Vittorio Giacopini, è pubblicato dal Saggiatore, 332 pagine, 18 euro. Il protagonista è un cartografo, Serge Victor, che al seguito di Napoleone nella campagna d'Italia avrà l'incarico di disegnare i nuovi confini dell'Italia, quelli che appunto Napoleone sta sconvolgendo. E tra l'altro anche di questo proprio Napoleone parla nelle sue note al memoriale di Sant'Elena. Torno infatti a quel libro per leggere alcune righe quando Napoleone parla parlando dell'Italia, dice: gli assetti dell'Italia erano tutti provvisori. Il progetto di Napoleone era di fare di questa grande penisola un'unica potenza. È in conseguenza di questo piano che destinò a se stesso la corona di ferro, allo scopo di tenere nelle sue mani la guida di tutti i popoli d'Italia. Quindi cambia la geografia, c'è questo cartografo che deve disegnare le nuove mappe, e questo personaggio, Vittore, è un illuminista, entusiasta, convinto del suo lavoro, non tanto di fotografare una nuova realtà geografica, quanto di fotografare una nuova realtà politica e sociale, che quindi il cambiamento dei confini corrisponda a un cambiamento radicale degli equilibri politici e sociali, che sono poi il frutto anche della rivoluzione illuminista in particolare. E sentiamo infatti come affronta il suo lavoro, lo spirito cartesiano illuminista che lo ispira, tratto proprio dall'esperienza di dover ridefinire Milano sulle mappe che sta disegnando. Milano, 19 febbraio, primo piovoso 1797. La città già la conosceva in effigie dalle mappe. Un lieve spostamento di coordinate, un trascurabile discreto ripiegare a occidente. 45 gradi 46 primi longitudine nord, 9 gradi 18 primi latitudine est. Niente laghi attorno, ma canali e chiuse e naviglie, fiumi e rogge, e un'invidiabile posizione al centro della grande pianura a dominarla. Il generale in capo, che c'era entrato quasi un anno prima, ne aveva scritto coi soliti toni da Giulio Cesare, mitigati soltanto dal metodo del geografo Pignolo: «Istoria e geografia, spazi e tempi, assediata 40 volte, conquistata 20 volte, interamente distrutta 4. Questa città è situata al centro di una delle più ricche pianure del mondo, fra le Alpi, il Po e l'Adda, a 32 leghe dalla vetta delle Alpi, sul San Gottardo, a 8 leghe dal Po, a 6 dal Ticino, a 43 dal Moncenisio, a 28 da Genova. Dati, cifre, elementi, pratici indizi, tutto ciò che esiste tra i punti geografici e che nel tempo si è materializzato e disfatto, e fu e non è. Tutto quanto possa rivelarsi utile all'arte della guerra o del governo. Ma lui, Serge, l'aveva già vista e compresa Milano sulle mappe. Mappe sovrapposte, a documentare il lento evolversi di uno stratificarsi di esperienze, accidenti, forme di vita, divergenti modi di percepire il mondo, a raffigurarlo. L'ingegnere geografo, prestato alle urgenze e ai tempi della guerra, quasi sempre obbligato ad allestire su carta territori e paesaggi d'altra natura, valichi, passi, luoghi di potenziali agguati o campi di battaglia, poteva ora sbizzarrirsi a immaginare un altro ritmo vitale, tutto urbano, borghese, laborioso, interamente dedito ai traffici di merci, ai consumi, a transazioni di denaro, assegnati, cedole, lettere di cambio o ai cheti riti della fede o del teatro, delle lettere. Ma le illusioni di Victor col passare degli anni si raffredderanno, lo incontreremo al seguito di Napoleone nella disastrosa campagna di Russia. Il protagonista affiderà al pennello di una manifattura di porcellane la descrizione delle battaglie e dei momenti più importanti di epopea napoleonica di cui egli stesso è stato testimone, fino alla reazione, alla definitiva abdicazione di Napoleone e alla vecchiaia nel periodo della reazione, che spinge il cartografo ad amare riflessioni sul senso della storia e della difficoltà a descriverla e a comprimerla in una descrizione scritta. Allora anche Sant'Elena, nell'epilogo del romanzo, diventa una sorta di astrazione simbolica. Definisce infatti Victor Sant'Elena un'isola mappa da scrutare, contemplare, esaminare come se si fosse per aria, in astrazione, fissa un punto, un istante del tempo, un'occasione. L'immagine più esatta sono le nuvole, mulinelli biancastri che adesso si estendono a ovest-nord-ovest, sfilacciandosi alte, batuffolanti. E anche Napoleone troviamo in un'antologia di letteratura amorosa. Il libro si intitola Lettere d'amore di uomini e donne straordinarie, pubblicate da Piano B Edizioni, 198 pagine, 15 euro. Napoleone, che è fra i personaggi appunto raccolti in questa antologia, scrive a Giuseppina di Bernet. Sono tre lettere scritte intorno al 1796, quando Napoleone ha sposato da poco Giuseppina per iniziare poco dopo la campagna d'Italia. Ci sono dei toni molto spesso addirittura autoritari. Napoleone, per esempio, è molto offeso in certi momenti che Giuseppina non gli scriva, e lui ribatte: non ti amo più, ti detesto, sei una disgraziata, davvero stupida, una sciocca cenerentola, salvo poi proclamare il suo amore per Giuseppina. E poi troviamo in questo libro tanti altri personaggi, dall'antichità classica ai grandi autori del Novecento, tra i quali Pessoa, Gramsci, Majakowski, London, Kafka. Sono insomma lettere di tutti i generi, colte, alcune passionali, sbrigative, telegrafiche certe volte, ma sempre capaci di esprimere questa grande passione e di ispirarci magari qualche maniera per arricchire i messaggini ai quali oggi affidiamo troppo spesso la testimonianza delle nostre passioni. E a questo punto il confettino. Avendo parlato di storie e di romanzi storici, vi segnalo un mitico personaggio dell'antichità romana che troviamo in un appassionante libro per ragazzi, Spartaco, questo è il titolo, il personaggio ve lo ricordate. L'autore è un grande storico americano, Barry Strauss, e il libro è illustrato da Paolo Daltani, adattato da Carola Susani, è pubblicato dalla Terza, 62 pagine, 18 euro, e troviamo qui il racconto appunto di una sfortunata ma coraggiosa battaglia di libertà che è rimasta famosa nei secoli. E a questo punto ringrazio Luca Cremonese, redazione, Pietro Lacorti, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.